L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti amiche e amici di Radio 24, io sono Achille Corea e questa è l'Italia vista dallo spazio, il programma che ogni giorno cerca qualcosa da salvare dell'Italia per arrivare alla fine ad avere 24 simboli da lanciare nello spazio, 24 cose, oggetti, persone, immagini, concetti, ricordi per mostrare quello che l'Italia è, ma soprattutto quello che l'Italia vorrebbe essere. Noi di solito portiamo degli oggetti, delle cose materiali, oggi invece porteremo qualcosa di immateriale, ma non per questo meno importante, perché oggi parliamo di parole. Le parole da qualche anno sono un po' bistrattate o comunque vengono parecchio sminuite, no? Insomma, ormai è normale dire sono solo parole, quello è bravo solo a parlare, basta parole, vogliamo i fatti. Non so se è colpa di qualcuno in particolare o di tutti noi, però insomma è passata l'idea che le parole non abbiano poi tutto questo valore. Io invece vorrei sperare che le parole fossero ancora importanti, come diceva Nanni Moretti in un film di qualche anno fa, e ricordare un po' quanto valgono le parole, il valore che hanno, e soprattutto considerando il fatto che noi siamo sommersi dalle parole. Qualche anno fa qualcuno azzardava ipotesi di un futuro senza ormai scrittura, senza nessuno a leggere. Invece oggi tra Facebook, Twitter, blog siamo sommersi da frasi e da citazioni. E il bello è che sono, il bello e il brutto è che sono tutte mischiate. C'è una frase di Primo Levi, poi una citazione di Jim Morrison e poi c'è uno status di mio cugino. Tutto insieme, e noi dobbiamo anche distinguere, capire il valore di una frase piuttosto che di un'altra, ed è per questo che oggi il nostro gioco, il gioco dell'Italia vista dallo spazio, lo faremo sulle frasi. Vi chiedo questo, di scegliere una frase, una citazione, un proverbio, una battuta, un verso di una poesia, un verso di una canzone, una frase da salvare che racconti e spieghi l'Italia, ditecela e diteci perché all'800 24 00 24. Posto numero 17, in attesa di assegnazione. Ma prima devo dirvi che cosa salviamo della puntata di ieri. Allora, una piccola precisazione, mi dilungo un attimo oggi. Io ho tenuto sempre un po' fuori la politica, ma non per chissà quale motivo, perché insomma la mia missione è trovare 24 cose, riempire 24 posti. E io ho pensato che se avessi dedicato uno di questi posti ai politici mi sarebbe rimasto vuoto e saremmo partiti con 23 cose invece che con 24. E invece sorpresa, ieri vi abbiamo chiesto una donna da salvare, ci aspettavamo che ci diceste showgirl, attrici, eccetera, invece avete cominciato a chiamare per dirci donne della politica, e poi Facci ha detto Emma Bonino e un sacco di ascoltatori sono andati dietro a quest'idea, e quindi alla fine noi portiamo a richiesta dei nostri ascoltatori Emma Bonino. Il posto numero 17 è assegnato così. Posto numero 17, assegnato. No, forse ho toccato un argomento che non... No. L'espressione, non è l'argomento, non è l'argomento, è l'espressione. Preferisce... Matrimonio a pezzi, ecco, ma come preferisce... parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Ecco, scontata ma inevitabile la citazione di Nanni Moretti, le parole sono importanti, ma come parla? Chi parla male, pensa male, tutto il resto. E oggi io chiederò dove andiamo a prendere delle parole, delle frasi, però in senso buono, e lo chiederò a voi, ovviamente, 800 24 0024 349 238 6666, se volete risponderci via SMS. E lo chiederò ai nostri ospiti. Il primo è con noi già, Enrico Baime, benvenuto. Eccoci qua, buongiorno. Enrico Baime, di parole, di frasi ne ha scritte tante per la televisione, per il teatro, sì. per la radio. E sì. Io quindi sono abbastanza curioso di sapere intanto da che ambito ha scelto la citazione da salvare. Ma nell'ambito storico, perché mi sembrava più importante salvare. Innanzitutto io ho paura delle citazioni, ovviamente, perché lavorando con le parole mi rendo conto del rischio della retorica e quindi bisogna stare molto attenti, e quindi l'ambito storico mi sembra quello più rassicurante, meno, non che non si presti a uno sfruttamento retorico, ma insomma ci si può ragionare sopra e vedere perché, fino a che punto. Quindi io mi è venuto in mente, ma non so, non perché sia particolarmente suggestiva, una frase attribuita a Massimo D'Azeglio che dice: più che altro una mozione di intenti. Dice: adesso che abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani. È un progetto ambizioso che è ancora in corso, speriamo che succeda qualcosa in questo senso, e siamo tutti molto curiosi di vedere come va a finire. Ma è una frase, è una mozione di intenti molto importante. Impegnativa, e... sì. Noi italiani di solito poi invece siamo molto bravi a smitizzare queste cose, no? Noi siamo quelli che diciamo anche o Roma Orte, per citare un altro film. Sì, appunto, Roma Morte, voglio dire, non c'erano alternative. Non credo che c'era un imbecille, dice morte, guarda, lascia perdere Roma. Siamo anche prigionieri di un gioco più furbo di noi, questa è la verità, e quindi bisogna stare molto attenti, molto. Non è un po', diciamo, non dico preoccupante, insomma, non ci pesa un po' questo fatto che una frase così vecchia sia ancora attuale, che siamo ancora work in progress, per usare invece un termine inglese, a lavori in corso? No, purtroppo è una realtà, sì, mi dispiace, ma è una realtà, non si può negare. Noi siamo rimasti, abbiamo perso molti treni, anzi addirittura molte carrozze a cavalli, abbiamo cominciato a perdere i mezzi già da secoli, quindi poi siamo rimasti ci siamo impicciati con le parole, con le frasi roboanti. Ecco perché io ho paura. Se uno ripensa alle frasi storiche, non sono insensibile al grido di dolore, il povero Vittorio Emanuele II fece questo discorso della corona al Parlamento piemontese, ecco, non sono insensibile al grido di dolore, che fu, diciamo, un invito alla nazione a seguire Casa Savoia. Ebbene, era una truffa in qualche modo, nel senso, Casa Savoia era una casa regnante da quattro soldi, piccola, ambiziosa e non aveva molte speranze di ingrandirsi. Acchiappò al volo questa occasione, ma non c'era questo, non è vero che Vittorio Emanuele II sentiva il grido di dolore, sentiva il bisogno di allargare lo Stato. Il grido di dolore veniva dai patrioti veri, cioè dai mazziniani, da quelli che credevano in un'Italia diversa, non quell'Italietta che poi sono riusciti a costituire in maniera così abbastanza borracciata e che poi ci ha portato dove ci ha portato. Quindi possiamo dire quindi che le frasi forse le dobbiamo anche un po' scrutare, ricordarci insomma cosa c'era dietro, qual era l'intenzione. Certo. Purtroppo siamo poveri in questo senso, ma noi abbiamo una facilità di citazione, proprio per rimanere in argomento, che non ci spaventa più. Per cui, per esempio, ci sono dei modi di dire che si vengono usati con una indifferenza e una leggerezza preoccupante. Quando si dice vinca il migliore, non è vero, lo sappiamo. Chi dice vinca il migliore vuole vincere lui, non è vero che vuole che vinca il migliore. Cioè, la meritocrazia all'improvviso è una scoperta, è un obiettivo, non è così. Adesso non vorrei entrare nell'ambito calcistico, che poi lì si apre un mondo, però leggevo che il retro del colletto della Juventus quest'anno c'è scritta una frase di Boniperti che dice: vince non è importante, è l'unica cosa che conta. Quindi insomma, forse quella è più veritiera. Sì, è, diciamo, è meno ipocrita, ecco. Ma comunque sempre fa male. Ma io mi ricordo un grande allenatore, Nereo Rocco, quando un radiocronista lo intervistò e chiuse dicendo che stava per incontrare proprio la Juventus, Rocco, che allenava il Milan, e il cronista disse: beh, allora che vinca il migliore. E Rocco, che era una persona per bene, speriamo di no. Ricordavo questa, l'avevo letta. Va bene, io insomma facciamo così, queste sono frasi che forse ci spiegano un po' di più, però è bello anche portarsi dietro una frase su cui ancora dobbiamo lavorare, come quella di Massimo D'Azeglio. D'Azeglio, ringrazio Enrico Vaim per essere stato con noi e per la sua scelta. Grazie e andiamo avanti. E allora tieni a mente che è tutta colpa del buco nell'ozono. I negri hanno tutti quanti il ritmo del sangue. Uno può bere quello che vuole, l'importante è non mischiare. E Questi erano Greg e Lillo proprio agli albori della carriera, Latte e i suoi derivati. Era una canzone fatta tutta di luoghi comuni, perché poi bisogna stare attenti anche a questo, alle frasi che usiamo con disinvoltura e che poi forse consumiamo, per parlare anche di frasi, diciamo, abusate. Io vi aspetto all'800 24 00 24, perché noi abbiamo anche questo mantra, diciamo sempre all'Italia Vista dallo Spazio, che per portare qualcosa bisogna essere disposti, a volte anche un po' contenti, di abbandonare molte altre cose. La prossima ospite che abbiamo è Anna Maria Testa, benvenuta. Buongiorno. Anna Maria Testa, pubblicitaria ed esperta di comunicazione e di creatività, da qualche anno si occupa di un sito che è nuoveutile.it, che è dedicato proprio alla creatività. E la prima domanda è: intanto, come siamo messi noi a uso delle parole, a rapporto con le parole in questo momento in Italia? Ma credo che sia arrivato il momento di uscire, se ne parlava un attimo fa, dai luoghi comuni, di riconnettere le parole con il loro senso, magari di risparmiarle ogni tanto, e di dire parole che abbiano peso e non se ne vadano in giro in libertà raccontando qualsiasi cosa. Questo ci aiuterebbe molto. E partiamo appunto allora diciamo dal rovescio della medaglia. Ci sono frasi ormai, diciamo, consumate e che dovremmo cercare di abbandonare? Sì, tutte le frasi che ci portano a subire le situazioni senza ci perdonano quando subiamo le situazioni senza provare a cambiarle, come è sempre la stessa storia, è sempre la stessa zuppa, sono tutti delinquenti e via di questo passo. Cioè, un aggiornamento del pezzo di Greg e Lillo che dicevamo prima si potrebbe tranquillamente fare in, diciamo, sono posizioni di comodo, è troppo facile fare così, no? Beh sì, effettivamente sì, e poi soprattutto se c'è una frase fatta come un luogo comune, diciamo la verità, hanno anche una bellezza queste cose, che è la comodità, cioè uno ce l'ha già lì, perché si dovrebbe sforzare? Sì, ma sono delle trappole, ci rendono peggiori di quanto non potremmo essere, mentre chi vuole coltivare il pensiero creativo dovrebbe pensare a come le cose potrebbero essere migliori, più interessanti, più utili. L'Italia vista dallo spazio. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Stia tranquilla, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Beh, io sono un po' qui per questo. Questa era una vecchia gag del trio Marchesini Lopez Solenghi, proprio sui luoghi comuni, frasi fatte e pronunciate a un funerale, ne parlavamo prima, ma insomma quelli cerchiamo di tenerle fuori dalla nostra astronave virtuale. Andrea ce le ricordava proprio una, che è: vengono qui per rubarci le donne e il lavoro. Questa effettivamente è una bella comodità. Anna Maria Testa, rieccoci, questa volta le chiedo una frase in positivo, quale potrebbe essere? Non è stato facile, devo dire che tra le frasi che mi ricordavo e tra quelle che ho cercato navigando su web si trovano affermazioni che parlano o benissimo in maniera quasi esagerata dell'Italia, cioè Gogol che dice magnifico paese per te, l'anima gemme e si strugge, forse anche no, e invettive feroci, alcune a cominciare da quella dantesca ai serva Italia, per poi arrivare a Flaiano che dice in Italia la linea più breve fra due punti è l'arabesco, o al Churchill, prima parlate di calcio, che dice gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero guerre. Dai e dai, però, ho trovato una frase che somiglia al messaggio che secondo me di noi oggi dovremmo dare al mondo, ed è una frase di Renzo Piano. Vado a leggerla. Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose, articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E per questa italianità c'è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo. Bene, questo era Renzo Piano, che insomma intanto è un contemporaneo e diciamo già magari ci avviciniamo a oggi. Non ci starebbe in un tweet, stavo notando questa frase, quindi ha forse questo difetto, però va bene, non mettiamo dei segni. Qual è la cosa? Possiamo mettere il finale. Il finale, questa sì. Italia che crede nella cultura, c'è posto a tavola nel resto del mondo. Insomma, alla fine riusciamo sempre a limare e diciamo ad arrivare al punto. Io ringrazio Anna Maria Testa, ricordo anche il sito nuoveutile.com. dove effettivamente poi si discute anche di delle parole, delle frasi, di come possono aiutare la creatività. Segniamo questa frase di Renzo Piano e la ringrazio per essere stata con noi. Buongiorno a tutti. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola invocava il rapper Frankie High Energy qualche anno fa. Fatemi fare un giro di tutte le nostre piattaforme possibili e immaginabili. Gli SMS 3492386666. E qualcuno ci dice: siete sicuri che la frase fatta d'Italia bisogna fare gli italiani è proprio di D'Azeglio? No, in realtà non c'è una sicurezza, è attribuita, poi insomma se ne potrebbe dibattere. Vi piacciono molto le frasi fatte, ce ne segnalate. Chi evade le tasse ruba anche a te. Questa però mi permetto di dire che è vera, cioè sarà una frase fatta, ma a volte le frasi fatte hanno questo pregio. Ci segnalano De André, Marta Bada, Twitter, vi ricordo l'hashtag cancelletto dallo spazio, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Sentiamo qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Giuseppe da Bisceglie, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, quale frase scegliamo? Ho citato una frase di Lucio Dalla, della canzone No Erotico Stop, che dice: l'importante è essere normale. Forse era l'impresa eccezionale, dammi retta a essere normale. Perché normale. Non siamo più normali? Se lei esce e va in giro, dalla normalità non c'è. Senz'altro c'è tanto estro in Italia, tanta genialità, però poi anche c'è tanto malcostume, tanta miseria interiore, parlo, e quindi lei farebbe a cambio magari un po' meno di estro e un po' più di normalità. Grazie Giuseppe da Bisceglie. Rimaniamo in Puglia, Paola da Foggia, benvenuta. Pronto? No, penso non ci sia. Allora, Dario da Varese. Dario? Non c'è nemmeno Dario. Abbiamo un momento, ma tanto abbiamo un'altra ospite. Intanto così poi recuperiamo gli ascoltatori. La nostra prossima ospite è una blogger, una scrittrice. Ha un blog ormai storico che sai tenere un segreto. Si chiama Giulia Blasi, benvenuta. Ciao Kill, ciao a tutti. Eccoci Giulia, partiamo dalla frase che hai scelto. Intanto qual è l'ambito, il periodo storico, il contesto, come si dice in questi casi? Allora, io direi che la modernità assoluta, per non dire proprio l'attualità, sono due frasi che sono state pronunciate durante le ultime Olimpiadi, per cui stiamo veramente nella contemporaneità assoluta. La prima è la frase di Alex Schwarzer, che come sapete è stato appunto trovato positivo al doping, che nella conferenza stampa in cui ha confermato la sua positività ha detto: mi prendo ogni responsabilità, ho fatto tutto da solo. È stato lui ha sbagliato clamorosamente, il doping è una cosa terribile soprattutto per un atleta. Tuttavia, in un paese in cui la responsabilità non esiste, nel senso che nessuno si prende mai la sua e tutti scaricano sull'arbitraggio, sui giudici cattivi, sul fato, sulla sfortuna e su altri elementi al di fuori del loro controllo, preferibilmente al di fuori del loro controllo, un uomo che si alza e dice è colpa mia, sono stato io, secondo me è un buon punto per ripartire. Perché anche prendersi le proprie responsabilità nella vita quando si sbaglia è un atto di onestà. C'è una cosa che mi viene in mente, una citazione un po' più vecchiotta e non italiana. C'era il famoso problema di Fonzi che non riusciva a dire ho sbagliato, cioè e quello forse a volte ci riguarda. La seconda frase qual è, visto che hai detto due dalle Olimpiadi? E la seconda è una frase che ha detto Josefa Idem dopo essere arrivata quinta alla finale della disciplina in cui concorreva. Lei ha detto: ora voglio scrivere storie di perdenti. In Italia c'è una grande enfasi sul vincente, su qualcuno che fa il suo percorso, segue il suo sogno oppure si butta in politica e stravince. E chiunque faccia il suo lavoro con onestà, magari senza prendere medaglie o vincere, ma dando un contributo significativo, impegnandosi fino in fondo, dando tutto se stesso, cercando di superare i suoi limiti, non viene celebrato mai. Il lavoro, anche quando non dà frutti tangibili, misurabili, ma dà risultati spirituali, non viene celebrato molto spesso, nonostante il fatto che siamo una repubblica fondata sul lavoro, in teoria. E quella è un'altra frase da salvare, forse. Esattamente, per cui io vorrei veramente ripartire dall'idea di Josefa Idem di raccontare il sacrificio, il lavoro, il quotidiano di qualcuno che si sceglie una vocazione, una professione e la porta fino in fondo, dando il massimo, anche se poi non vince le medaglie o non le vince più. Perché questo secondo me è un ottimo modo per chiunque, per tutti noi, per ripartire, dare il massimo in tutto e poi va bene. Allora proviamo, insomma, penso che anche se i presupposti sono diversi, che possiamo provare a infilarcene dentro due, poi, oppure magari agli ascoltatori chiederemo di scegliere tra queste due. Giulia, io ti ringrazio per essere stata con noi e per averci dato questa scelta molto attuale, così ci ricordiamo anche, insomma, di qualche frase del momento. Grazie Giulia Blasi. Grazie a te, grazie a tutti. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sono solo parole, così cantavano Amy, sono solo, io ci metto il punto interrogativo, perché appunto, cioè, il fatto che siano solo parole e, insomma, non è forse esattamente così giusto, almeno questa era la mia intro, cioè le parole poi, Nanni Moretti, io le ricito, sono importanti anche poi quando le sbagliamo, quando non citiamo correttamente e quando ci fanno notare, poi magari usiamo dei parametri sbagliati, fatemi sapere, sentire chi è che via sms ci, no, si è firmato, diceva, diciamo che le parole sono importanti e poi la misuriamo nella misura del Twitter. Beh, però la sintesi, guardate che la sintesi aiuta, poi ovviamente siamo aperti a frasi più lunghe, però un po' di sintesi ogni tanto ci serve. Ci riproviamo. Dario da Varese, pronto? Sì, sono qui, pronto. Eccoci, ce l'abbiamo di nuovo. Qual era la scelta, diciamo, la frase dunque, scelta? Io ero entrato nella trasmissione che era già iniziata, forse non avevo capito, ma comunque la prima, quando si parlava di frasi, mi era venuta in mente quella che poi ha citato la signora, la serva Italia di Dolore Ostello, non donna di provincia di Mabordello. Ma questo semplicemente per dire, contrastare quelli che oggi dicono oggi tutti rubano, oggi no, perché se già Dante diceva una cosa del genere vuol dire che anche allora, insomma, quindi questo già sfaterebbe il luogo comune che oggi ci sono queste cose. Quindi una frase per riportarci un po' di prospettiva storica e dire, non so, sì, quanto ci... che alla fine sì. Nulla di nuovo sotto il sole, ecco, questo è un altro. Questo forse, però forse questo è così, sì. Perché se lei legge la Bibbia parlano già di uomini politici corrotti, di puttane, vabbè. Senta, so, non, so quanto, non so quanto, non so se è consolatorio, però diciamo la prospettiva storica credo che sia importante. Andiamo, vediamo, abbiamo un altro paio di ascoltatori. Davino da Milano, benvenuto. Buonasera. Buonasera, la sua citazione, la sua scelta. È la mia citazione, una frase di Cicerone al Senato Romano: come avrai seminato così mieterai. Questa frase vale per, praticamente per qua giù una società, come vale per lassù nello spazio. Va bene, questa, diciamo, poi mi piace perché comunque al di là di Cicerone mi ricorda anche qualcosa di contadino, ogni tanto, insomma, ritornare alla terra può essere tornare pure utile. Alle origini dei qui sarebbe pure un'altra cosa da approfondire. Va bene, grazie Davino. Chiudiamo con un'ascoltatrice, avevamo cercato di sentirla prima, era caduta. Paola da Foggia, benvenuta. Salve. La sua buonasera. Citazione in chiusura? Io ho scelto la frase di Dante, fatto non fosse per vivere come bruti, ma per seguirvi tutte conoscenza. Può essere banale la scelta, però non è banale il contenuto. Per me è una mappa di viaggio che penso ci può coinvolgere ancora una volta, insomma. Quindi richiamarci alla memoria del passato per per un viaggio nel futuro. Speriamo. Va benissimo, io ringrazio Paola e ringrazio tutti voi che state continuando a scrivere su Twitter, su Facebook. Avete tempo fino a domani, il voto lo chiudiamo all'inizio della trasmissione, insomma, quindi alle 16:30 nella nuova puntata di Televista dallo Spazio. Ringrazio Valerio Rocchetti e Antonella Migliaccio, ringrazio tutti voi, da Achille Corea è tutto, a domani. Posto numero 18, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.